anche Luigi. Ieri non lo pensavi. Per oggi penso. Perché? Di mille amori, gioia e amore. Yeah. sognato nel casetto, con un piccolo orticello, quattro muri senza tetto, e lui mi libera un re, e un mio vecchio stella sotto, e mi libera Oh! penso che hai fatto bene a trattenerlo. I muoi, Luigi, forse ha fatto male, passeranno due uomini, non c'è molto la Magascia, bene per non ucciderlo. Thank you. troppo vecchio. Il Pinco, forse? No, no, non pensa. Bene, e dunque chi? Luigi! No, è proprio questa sera voleva abbandonarmi. M'ha fatto preghiera di sbarcarlo a Roma. Ma dunque chi sarà squarciare le tenebre, vedere serrarlo così tra le mie mani e gridargli sei tu, sei tu, e gridargli sei tu, sei tu. Il tuo volto livido sorrideva alla mia pelle. Avevo ben ragione, non dovevi dormire.